Vittima di un vizio. E di partenza sterili telefono. Almeno se lo vuoi basta chiederlo. E il mio lavoro caro come l'oro, febbre da fuoco. Fiero di essere bici da dentro a fuori, schiavo dei miei umori. Conta gocce di valori seri. Gli amici pochi li conto sui miei occhi liquidi, vetri appannati. Gridano forte perché insonorizzati. Altrettanto è la vendetta per gli allievi. Se arrivi alla stregua di brighe, calcio streghe. Costri mi sfrego, ti spiego. Tutto pieno screpolato proprio. Concretizza il fatto che non sei arrivato quando ti ho chiamato nervoso. Vino cattivo sradico e sbavo. E sputo nel bicchiere che mi hai dato. Non ho bevuto per il fatto che era vuoto, sporco e filato. Una bottiglia non basta per tutte e quattro. Ricevuto il messaggio. SMS. Game over. Hey yo. Esco di casa per prendere sonno e fare qualcosa. Torno a casa ho più freddo e più fame. La cena non basta, sarà. Quest'aria o questa lieve brezza sarà. Il silenzio della natura sarà. Credo che stanotte c'è un hito. Profumo di pulito. Uno, sentito. Due, capito. Preciso, come orologio sardo in granito. Sparito, la prima domenica del mese. Una. Quattro per amore, sì. Sei stato scorretto e non va bene. E nove per natura e non va bene. Va bene. Da un giorno all'altro non va bene. Non sei va pronto, bene. Prendi appunti per le dritte per cambiare il mondo. Io, io c'ero, tu c'eri, ah sì, dovevi, sapevi, no, freddo ci mangiava fino ai piedi, ah io, vedi, forse cazzi quei te li facevi, no. Soldi spendevi, quindi, ne avevi, amici, ne avevi, sì, sì. Amici fottevi, ah. E di oro chissà quanto te ne è passato sotto il naso, venduto appeso e mai reso, mi hai offeso, e bastito affari di poco conto per piccole razioni di carni dolci così, mi son trovato chiuso da un effetto dinamico, che è il sapore di uno, due, di me, te, tre, console, suoni, toni, pastello come raggi, filtrano, scimmionatevi, su, disegni caldi, colori e smalti per l'arte, acqua nebulizzata, evapora, frequenza massima, 30, distanza 4 di partenza, 7, per 3, 3, ristabiliti dalla legge BG, stabilizziamoci qui, ti racconto dell'inverno del 99, legge nel 2000 di una calda estate, buonasera, bene se sei starci, se no, non starci, non conviene non starci, non fa, metti che fuori si confonda, non è uomini, metti due suoni e bendami, le mani slegami, sono Chandler. Spezza stereo, su Big Mac, Spezza stereo, altri tempi, Aio, 9-0 sulle mani, perché c'è chi non c'era in base, caro, altri tempi, altri tempi, altri tempi, Spezza ste, Spezza ste, Spezza ste, BGB, altri tempi, ora sì, altri tempi, altri tempi, altri tempi, altri tempi.